Torre, giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Il rogo del Carso, decine di ettari in fiamme tra i comuni di Doberdoi, Duino, Urisina, Sablice, evacuata una ventina di persone, ancora chiusa a 4, strada del Vallone e ferrovia tra Trieste e Monfalcone. Vigili del fuoco e volontari al lavoro per tutta la notte per tenere sotto controllo l'incendio, valori record di polveri sottili a Monfalcone. Udine, bambina di 4 anni, precipita dalla finestra, operata alla testa, gravissima. Vertenza Varsila, la multinazionale tira dritto, al tavolo con la regione, confermato il piano di dismissione dello stabilimento di Bagnoli, Fincantieri minaccia di tagliare i rapporti. Covid, calano i contagi e incidenza mentre ripartono a pieno regime gli hub vaccinali per la quarta dose agli over 60. 30 anni da Via D'Amelio a Trieste, ricordo di Eddie Walter Cosina che era nella scorta del giudice Borsellino. Un mito della chitarra e un super divo del grande schermo, a Pordenone arrivano Jeff Beck e Johnny Depp, Carmen Consoli in concerto a Grado. 19 minuti, buona giornata da Giampaolo Mauro e Andrea Saule. Come di consueto apriamo con uno sguardo al tempo. Abbiamo cielo sereno, poco nuvoloso sul Friuli Venezia Giulia. Queste le temperature registrate alle 6. A Trieste 26 gradi, il mare è quasi calmo e ha una temperatura di 25 gradi. A Gorizia 22, a Udine e a Pordenone 21. Nell'area montana a Tolmezzo 20 gradi, a Tarvisio e a Sappada 12, a Forni di Sopra 16,5. Sul Piancavallo 14, ancora in quota abbiamo sul Lussari e sullo Zoncolan 15 gradi e 5 decimi. Sulla costa Lignano 26, a Grado 24, con temperatura del mare a 26 gradi. Queste invece le previsioni dell'ARPA Friuli Venezia Giulia, cielo in prevalenza sereno, sarà più caldo ma ancora abbastanza secco, sui monti poco nuvoloso al pomeriggio, specie sui settori più interni, venti a regime di brezza anche sostenuti sulla costa al pomeriggio. In apertura dunque l'incendio sul Carso, un triangolo di fuoco tra Devetacchi, Sablici, Medeazza, a cavallo tra i comuni di Doberdò del Lago e Duina Urisina. Una ventina di persone hanno dovuto lasciare le loro abitazioni minacciate dalle fiamme a Sablici, abitazioni comunque salve. Per tutta la notte i vigili del fuoco di Gorizia, coadiuvati da alcune squadre degli altri comandi, hanno lavorato per tenere sotto controllo il rogo dopo la difficilissima giornata di ieri. Decine di ettari di vegetazione sono comunque già andati in fumo. L'assenza di vento nelle ultime ore ha aiutato gli operatori a limitare i danni, ma il fumo è ristagnato soprattutto nella zona di Monfalcone, fumo denso che ha fatto impennare i valori di polveri sottili. Rilevamento dell'ARPA delle ultime ore notiamo che c'è stata una crescita dai 96 microgrammi per metro cubo delle 21 di ieri sera fino ai 1600 microgrammi per metro cubo delle 3 di questa notte, quando i valori limite giornalieri, lo ricordiamo, sono di 50 microgrammi per metro cubo, quindi valori che si sono davvero moltiplicati e che andranno nuovamente monitorati nelle prossime ore. I sindaci suggeriscono di limitare gli spostamenti per evitare anche gli ingorghi come quelli che si sono registrati ieri. Restano chiusi, come sentiremo tra poco nel dettaglio, l'autostrada A4 e raccordo fra Duino e Redipuglia, chiusa la strada del Vallone ed è chiusa anche la linea ferroviaria. Trenitalia sta sopperendo con le navette, ieri i passeggeri dei treni bloccati hanno viaggiato anche via mare fra Trieste e Grado. Ripercorriamo ora il drammatico pomeriggio di ieri, il primo allarme poco dopo mezzogiorno, poi le fiamme che lambiscono il casello dell'Isert e l'evacuazione dei lavoratori di Autovie Venete, senza tregua il lavoro dei vigili del fuoco, dei forestali e dei volontari di protezione civile. È stato un pomeriggio molto difficile per tutte le forze impegnate nello spegnimento, 2 elicotteri della Protezione Civile e una 50 di volontari, 3 elicotteri dei Vigili del Fuoco e un Canadair che si rifornisce a mare. A lavoro ci sono i Vigili del Fuoco di Gorizia insieme a quelli di Trieste, Udine e Pordenone e un contingente arrivato dalla Slovenia. È intervenuto anche un elicottero militare decollato dall'aeroporto di Trieste. Le fiamme sono partite nel primo pomeriggio da Sablici, verso le 3 hanno circondato sfondato la barriera autostradale dell'Isert. Il personale impiegato al casello è stato evacuato. Monitorate per tutto il tempo la linea elettrica, l'oleodotto e il gasdotto che passano vicino al territorio interessato, ma per i quali non ci sono al momento rischi. Le cause dell'incendio non sono ancora note. Di certo il caldo e la siccità contribuiscono a creare il terreno favorevole. Il fronte del fuoco tormenta tutto il Carso Isontino. Livia Liberatore, TGR Friuli Venezia Giulia. Interrotte ieri anche l'energia elettrica, un blackout di una ventina di minuti fra le 17 e le 17.30 circa, è interessato tutta la provincia di Trieste, dunque da Duino fino a Muggia. E dicevamo dei trasporti, ieri un pomeriggio di passione con la provincia di Trieste virtualmente isolata, spostamenti condizionati da lunghissime code per la chiusura del raccordo dell'autostrada fra Duino e Redi Puglia, che proseguono. Come avete già sentito, i mezzi pesanti viaggiano lungo il bypass attraverso la Slovenia, in pratica fra Villesse e Fernetti. Non ci sono indicazioni sulla riapertura della linea ferroviaria, lungo la quale l'incendio ha fatto registrare diversi focolai. Ma sentiamo il servizio sulla difficilissima giornata di ieri. Giornata di viabilità in tilt, quella di ieri in tutta la Venezia Giulia, con pesantissime ricadute sul resto della regione. La autostrada A4 è rimasta chiusa da ieri pomeriggio e fino a sera in entrambe le direzioni tra Redi Puglia e Sistiana. Chiusa anche la statale 55 del Vallone, anche in questo caso in entrambe le direzioni tra San Giovanni di Duino e Sablici. Intasamenti quindi si sono formati in tutte le arterie minori, le strade regionali e provinciali dell'area che hanno dovuto assorbire il traffico dell'autostrada chiusa. A Monfalcone la situazione è stata particolarmente critica sulla viabilità urbana, così come anche a Duino Aurisina e a Sistiana. Capitolo a parte, il traffico ferroviario che è stato interrotto per buona parte della giornata, decine i treni da e per Trieste soppressi, centinaia le persone che sono rimaste bloccate. Inizialmente le ferrovie dello Stato avevano approntato un servizio di navette sostitutive per bypassare il tratto chiuso tra Bivio d'Aurisina e Monfalcone. C'è stata inizialmente difficoltà a reperire i pullman per garantire il servizio sostitutivo. Ci è stato detto che molti di questi pullman erano già destinati al sistema crocieristico. Quindi il servizio è poi sembrato partire, ma quando siamo arrivati alla stazione di Bivio d'Aurisina la gente era ancora ferma, il traffico intenso infatti non permetteva più la partenza delle navette sostitutive e il collegamento è definitivamente saltato. Forti disagi si sono registrati anche per il trasporto pubblico urbano, sia Trieste Trasporti che APT hanno avuto forti ritardi anche di diverse ore, soprattutto sulle corse interurbane e anche quelle urbane, specie nell'area del Monfalconese, hanno dovuto fare i conti col traffico cittadino in tilt. Trieste, Lorenzo Gerlinzoni, TGR, Friuli Venezia Giulia. Altri aggiornamenti, se ce ne saranno, entro la fine di questa edizione. Ora proseguiamo con le altre notizie di cronaca. Una bambina di 4 anni ricoverata in condizioni critiche all'ospedale di Udine dopo essere precipitata da circa 7 metri da una finestra dell'abitazione in cui vive con la famiglia in via Cividale. Si era appoggiata a una grata della mansarda che ha ceduto, facendola cadere in strada. Gli accertamenti della polizia intervenuta sul posto avrebbero escluso il coinvolgimento di terzi. La madre, che era presente insieme al fratellino della bambina neonato, ha dovuto essere a sua volta trasportata a Santa Maria Misericordia a causa di un malore. La piccola ha riportato un grave trauma cranico. Ieri pomeriggio è stata sottoposta a un delicato intervento chirurgico. Ora i temi del lavoro con l'avvertenza Wärtsilä. La multinazionale, incontrando ieri pomeriggio la regione a Trieste, ha confermato il piano di dismissioni per lo stabilimento di Bagnoli della Rosandra. Intanto Fincantieri va in pressing sulla questione dei motori già commissionati per le sue navi. È solo l'inizio di quella che probabilmente diventerà una trattativa al Ministero dello Sviluppo Economico. I lavoratori continuano intanto nel loro presidio. Domani è in programma una manifestazione davanti alla prefettura. Nessuna retromarcia. Wärtsilä conferma la procedura avviata la settimana scorsa, che prevede il licenziamento di 400 dipendenti diretti a causa del trasferimento della produzione da Trieste alla Finlandia. È stato lo stesso amministratore delegato di Wärtsilä Italia, Andrea Bocchicchio, a riferirlo al termine dell'incontro con il presidente della regione, Massimiliano Fedriga, che ha spiegato: bisogna ritirare il piano affinché si avvii il dialogo. In questo momento Wärtsilä conferma il piano e fare tutto il possibile per le proprie maestranze per cercare di trovare un futuro. Buchicchio ha risposto anche alle domande della stampa su cosa sapesse in realtà la dirigenza italiana della procedura avviata il 14 luglio. I vertici di Wärtsilä Italia hanno saputo della decisione il giorno 13 luglio. Ultimo scorso. Mi hanno accusato di aver mentito. Ci hanno accusato di aver mentito, ma non ho capito perché, e questo non è vero. Sarà lo stesso amministratore delegato a riferire la posizione della controparte italiana alla casa madre finlandese, cioè la richiesta di ritiro del piano. Solo da lì può partire un'eventuale retromarcia. Se ne parlerà presto al tavolo del Ministero dello Sviluppo Economico, a cui sono stati convocati anche i vertici scandinavi. Il presidente di Confindustria Alto Adriatico, Michelangelo Agrusti. Ci sono tanti modi di riportare la gente al tavolo. Io non ho mai visto imprenditori totalmente irragionevoli, ho vissuto vicende simili. Antonio Di Bartolomeo, TGR, Friuli Venezia Giulia. Le pressioni si intensificano, non c'è solo la partita dei soldi del PNRR chiesti da Wärtsilä, ma anche la minaccia di chiusura dei rapporti congiunti con Fincantieri per la ricerca e lo sviluppo di motori verdi come GNL e idrogeno. L'amministratore delegato del gruppo navale, Pierroberto Folgero, ne ha parlato in videoconferenza con i vertici finlandesi in mattinata e ha spiegato loro che Fincantieri sarà rigida nel pretendere il rispetto dei contratti, soprattutto su tempi e qualità, due fattori finora garantiti dal sito di Bagnoli della Rosandra. Intanto la vicepresidente del Partito Democratico, Deborah Serracchiani, ha scritto all'ambasciatrice finlandese chiedendo di mediare. Non calano i flussi di gas dalla Russia attraverso Tarvisio. Gli ultimi dati parlano di 30 milioni di metri cubi al giorno, cifra in linea con il periodo estivo. Eppure il gasdotto Snam di Tarvisio, che fino a gennaio era il primo punto di ingresso in Italia per volumi di gas, oggi è al terzo posto. L'hanno sopravanzato ormai stabilmente Mazara del Vallo con le forniture algerine e anche Passo Gries in Piemonte, attraverso il quale arriva il gas dal nord. Anche Melendugno in Puglia con il gas proveniente dall'Azerbaigian via TAP registra livelli simili a Tarvisio con poco meno di 30 milioni di metri cubi. Si chiama Next Generation EU e il PNRR ne fa parte, ma è attivo seppur con numeri inferiori rispetto all'Italia in tutti gli altri paesi europei. Le aziende del Friuli Venezia Giulia hanno l'opportunità di goderne dei benefici, se ne parlerà oggi a Udine alle 9:30 nella sede di Confindustria di Palazzo Torriani, un convegno per illustrare il pacchetto di opportunità. Interverrà da remoto anche Manlio Di Stefano, sottosegretario agli esteri. Abbiamo sentito Anna Mareschi Danieli, vicepresidente di Confindustria, a cui abbiamo chiesto come le nostre aziende possono avere accesso ai fondi e in quali paesi. Si parlerà del come le aziende italiane, che comunque sono particolarmente vocate all'export, soprattutto poi se parliamo del Friuli Venezia Giulia, essendo la regione con la più alta propensione all'esportazione e all'internazionalizzazione, si parlerà appunto di quelle che sono le opportunità che le nostre imprese possono cogliere e fondamentalmente delle modalità che dovranno essere perseguite per poterle cogliere. Ogni paese ha le sue peculiarità, ha i campi in cui ci sarà un focus maggiore di quelli che saranno gli investimenti, quindi vogliamo dare una visione di insieme di tutte le opportunità che potranno essere colte. Tra questi paesi ovviamente anche la Germania, che è il paese dove il Friuli Venezia Giulia esporta di più i suoi servizi. I suoi prodotti, non solo alla Germania, parleremo sicuramente anche di Francia e di Est Europa, poi non mancheranno sicuramente i paesi limitrofi come Austria, Slovenia, Croazia sicuramente anche. Come si sono mosse le altre nazioni rispetto all'Italia per l'assegnazione dei fondi del Next Generation EU? Sono i governi che hanno razionalizzato e hanno compreso quali sono i settori sui quali focalizzarsi e quali sono i settori da sviluppare nel più breve tempo possibile. L'Italia, per il conto suo, è la nazione europea che ha ricevuto l'ammontare più alto di questi fondi, principalmente per il fatto che la pandemia ha avuto un impatto maggiore. conseguentemente abbiamo una sfida ancora maggiore da cogliere, anche perché sappiamo che la nostra capacità produttiva comunque non è infinita e sappiamo anche che abbiamo una serie di ostacoli da superare per riuscire ad essere tempestivi nell'investire e mettere a terra questi fondi, che non sarà un gioco da ragazzi superare, no? Questo probabilmente sarà la problematica più grande che il nostro paese dovrà affrontare. 7:33 minuti in punto, facciamo ora il punto sulla pandemia. In calo i nuovi casi di coronavirus in regione, il bollettino regionale ieri ne contava 2.837 contro gli oltre 3.000 di una settimana fa, scendono sia l'incidenza sia il tasso di positività, che tuttavia rimane intorno al 23%. Anche ieri ci sono stati 4 decessi, mentre rimane stabile la situazione negli ospedali, con 7 ricoverati in terapia intensiva e 288 positivi negli altri reparti. Intanto il via alla somministrazione delle quarte dosi per gli over 60 e i cosiddetti fragili ha fatto riaprire a pieno regime i centri vaccinali. A Udine ieri individuati i vaccinati, scusate, sono stati 450. Il servizio si apre con le voci di alcuni di loro. Anzi, io avrei voluto farlo anche prima, ma nella tabella non rientravo, quindi oggi mi sembra che è uno dei primi giorni, quindi lo faccio oggi. Un soggetto fragile, avevo tergiversato, però visto che non si ferma. Ho gli altri conoscenti, sì, sono decisi di venire. Tra poco qualcuno ha già prenotato e qualcuno prenoterà. Di quella lontana prima dose rimane qualche primula qua e là, rimangono le sale, le stesse dell'inizio della campagna vaccinale, al quartiere fieristico di Torreano di Martignacco, ma rimane anche l'assenza di esitazione tra chi, over 60 e fragili di età superiore ai 12 anni, si mette in coda per il secondo booster. 8.000 prenotazioni dall'apertura dell'agende in ASU FC, altre 8.000 adesioni già registrate fino a Ferragosto. Si vaccina anche a Tolmezzo e Palmanova. Più titubanti i sessantenni rispetto a settantenni e ottantenni. In percentuale, l'adesione alla quarta dose nella fascia 60-69 è al penultimo posto in Italia. Se all'ente fiera i numeri dovessero crescere, si tornerà a utilizzare padiglioni più grandi. Aldo Savoia, responsabile del Dipartimento di Prevenzione di ASU FC. Si prevede di aprire delle sessioni, delle sedute molto più ampie a Lab Fiera, arrivando fino a 10 linee vaccinali. Si vaccina con Pfizer, ma non manca chi, per sdrammatizzare, chiede di provare anche Novavax, già che c'è. Due AstraZeneca, Moderna, cioè questo è Pfizer e vabbè, forse poi proverò qualcosa d'altro. Nelle mani del Signore prima e poi la scienza, perché scienza e fede vanno insieme, non si possono staccare. Torriano di Martignacco, Lillo Montalto Monella, TGR, Friuli Venezia Giulia. Altre notizie di cronaca: 15 giorni di sospensione per il bar Red Devils di Montereale Valcellina, lo ha deciso il questore di Pordenone dopo ripetute lamentele dei residenti della zona di Piazza Roma dove si trova il locale. L'ultimo episodio, quello del 6 luglio, quando una zuffa tra alcuni avventori ha richiesto l'intervento della polizia locale e dei carabinieri. 30 anni dalla strage di Via D'Amelio, nella quale morirono in un attentato di mafia il giudice Paolo Borsellino e 5 uomini della sua scorta, tra i quali il mugesano Eddie Walter Cosina. Una messa lo ha ricordato ieri a Trieste, vi ha partecipato anche Don Luigi Ciotti, il fondatore dell'associazione Libera che si oppone alle mafie. Lo ascolteremo subito dopo la nipote di Cosina, Silvia Stener. Per noi non sono passati 30 anni, per noi è passato solamente un minuto. Abbiamo imparato a convivere col dolore, trasformarlo in energia positiva e in amore da donare agli altri, portando la memoria e ricordo alle nuove generazioni di mio zio, e in quanto credo che la memoria è, ahimè, l'unica forma di giustizia che possiamo dare. Dal pulpito è lo stesso Don Ciotti a chiedere giustizia per le vittime di mafia. La verità rende liberi, cadano i muri di omertà. La verità è il bisogno di impegno di tutti, ma senza verità non si costruisce giustizia. Io credo che la vera storia che dobbiamo riflettere nasce con Tangentopoli, però. Abbiamo perso una grande occasione a febbraio in Tangentopoli, poi è arrivata la strage di Capaci, Via D'Amelio. Perché a Tangentopoli, lì si è chiamato in gioco la corruzione, gli intrallazzi di un segmento della politica. Lì è cominciata una storia da riflettere nel nostro paese, un'occasione persa. Trieste, Lorenzo Gerlinzoni, TGR, Friuli Venezia Giulia. La pagina degli spettacoli a Gorizia, saranno annunciati oggi i vincitori del premio internazionale Amidei per la sceneggiatura, che riceveranno poi i riconoscimenti al Palazzo del Cinema. L'appuntamento con la stampa comincerà alle 18. Un'altra grande serata dopo quella che ieri ha visto protagonista il regista iraniano Asghar Farhadi, due volte premio Oscar per il miglior film straniero. Il maestro, che ha ricevuto il riconoscimento speciale del festival, ha incontrato il pubblico per la proiezione di Un eroe, il suo ultimo lavoro. Nei giorni scorsi da Gorizia aveva lanciato un appello per la liberazione dei registi arrestati in Iran, paese che lui non ha mai lasciato nonostante le tematiche scomode affrontate nei suoi film. E ora la musica con un mito della chitarra in arrivo a Pordenone. Jeff Beck, 78 anni, ovviamente portati benissimo, le sue dita sempre agili e un suono inconfondibile. Ma accanto a lui c'è un altro mito del cinema e tra i protagonisti indiscussi del gossip. La voce, infatti, è quella di Johnny Depp, la strana coppia in tour in questo scorcio d'estate. Ed è un duo che fa faville. Beck domina la scena per un'ora, poi entra Depp caracollando, ma suonando anche, e come. Schema che si è ripetuto anche nei giorni scorsi a Umbria Jazz, mandando il pubblico in visibilia. Stiamo ascoltando da quella esibizione il duo in un celeberrimo brano di Jimi Hendrix, Little Wing. Questa sera dunque si replica per Pordenone Blues al Parco del Valentino. Pochi giorni fa è uscito l'album di Beck e Depp, dal vivo naturalmente sarà tutta un'altra cosa e sarà sicuramente un successo. Da un classico alla classica, con gli altri concerti di oggi, la Filarmonica di Milano, dopo il concerto di ieri sera al Castello di San Giusto, porta il progetto Beethoven dalla Società dei Concerti a Sagrado del Carso alla Castelvecchio. Domani sarà di nuovo a San Giusto con il pianista Alexander Lonquich. E questa sera al Castello di Trieste sarà in concerto la European Spirit of Youth Orchestra, diretta da Igor Coretti Curet, con il violino solista di Giovanni Angeleri. Nel programma, tra l'altro, l'Inno alla Gioia di Beethoven, l'ouverture dalle Nozze di Figaro di Mozart, il concerto per violino in re minore di Tartini. L'inizio alle 21, l'ingresso è libero. Trieste Loves Jazz stasera al Parco di Villa Sartorio, con un doppio appuntamento alle 21, la rivisitazione dei Pink Floyd firmata da Cathia West e Danilo Gallo con The Last Coat of Pink, e poi il pianoforte di Angelo Comisso, uno dei nostri migliori musicisti. Gli Ottoni del Teatro Verdi di Trieste suoneranno alle 18 nel Teatro all'Aperto del Comprensorio Ater di Rozzol Melara. Si tratta del secondo appuntamento del ciclo Note d'Estate in Città per il quintetto della Fondazione Lirica. Alle ore 17.30 al Civico Museo Teatrale Carlo Schmidl a Palazzo Gopcevich a Trieste, Daniela Barcellona, Una voce del mondo, realizzato in collaborazione con l'Associazione Cultura e Libertà, introdotta dal conservatore dello Schmidl Stefano Bianchi, affiancata dal marito, il direttore d'orchestra Alessandro Vitiello, e sollecitata dal critico musicale e giornalista Rino Alessi, sarà la stessa Daniela Barcellona a raccontarsi. Ripercorreremo la sua straordinaria carriera sui palcoscenici di tutto il mondo. E ora la musica d'autore. Ci spostiamo a Grado. Facciamo andata senza ritorno. Alla diga Nazario Sauro, la voce, le canzoni di Carmen Consoli, che arriva insieme alla sua band per una tappa di Volevo fare la rockstar per la cantautrice siciliana. È un'estate divisa in tre, se così si può dire. Sono tante infatti le diverse formule del suo tour in corso da giugno. Il viaggio attraverso l'Italia prevede versioni diverse a seconda della formazione che accompagna la cantantessa. Le altre sono acustico e femme fatale. A Grado Carmen Consoli sarà accompagnata da tutta la band e dai suoi 7 musicisti. Volevo fare la rockstar è anche il titolo dell'ultimo album in studio della 48enne artista catanese, il nono della sua carriera. Il pensiero corre libero e scomposto, sta su. E oggi a Udine per il Festival del Litorale al Teatro San Giorgio arriva un grande del circo comico e della giocoleria, Leo Bassi, che festeggia i 70 anni con uno show all'insegna delle acrobazie, inizio alle 21:15. Per i bambini dedica estate, propone a Pordenone la nuova tappa di ogni biblioteca e un'avventura. Quella di oggi alla Biblioteca Sud di via Vessallo è dedicata ai più bei libri di Hervé Tull, autore e illustratore francese. L'appuntamento è alle 17. E a Villa Vicentina, negli spazi del Parco sull'Isonzo, si apre il Festival Aison dedicato alla creatività ecosostenibile. Alle 18 l'apertura della mostra di Land Art con le opere di 10 artisti, a seguire lo spettacolo di teatro del paesaggio dal titolo Imago Mundi, le sonorità psichedeliche del duo K.U. e i corti della sezione Green del piccolo festival dell'animazione. Insomma, arte, musica, multimedia, sapori del territorio in un'atmosfera di totale rispetto dell'ambiente. Il vostro, chiediamo al direttore artistico David Strussiat, è un festival che fa e nel contempo dà il buon esempio. Aison cerca da 14 anni a essere un festival sostenibile, attento alla natura, nei contenuti e nella modalità di presentazione degli stessi e nella modalità di fruizione del pubblico. Innanzitutto siamo all'interno di una riserva naturale, perciò tutte le scelte sono basate nel rispetto di questo luogo. Gli artisti che vengono si prestano a realizzare le opere compatibilmente con l'ambiente, ma anche le stesse scenografie sono tutte realizzate con materiali naturali e il cibo che viene dato, le bevande, arrivano da chilometro zero o da filiera coltivata nel territorio. E inoltre, finalmente siamo riusciti ad eliminare del tutto la plastica monouso a fruizione del pubblico. La rassegna si apre in un momento particolarmente delicato per il nostro ambiente. Ci saranno riflessioni sulla stretta attualità? Cosa c'è nel programma? Abbiamo commissionato quest'anno, grazie ai bandi di ripartenza della Regione Friuli Venezia Giulia, dei lavori originali ad artisti, sia musicisti che coreografi, che scenografi, sul tema dei fiumi della nostra regione. Mostrare la fragilità e la ricchezza e il valore anche spirituale dei nostri fiumi attraverso lo sguardo e l'intelligenza di artisti ed esperti. Acquisite, per così dire, una sezione nuova che è quella dei video che vi arrivano dal piccolo festival dell'animazione, anche questi tutti intonati naturalmente alla vostra rassegna. È dalla sinergia, dalla relazione che si cresce culturalmente, umanamente, e si raggiungono anche nuove tipologie di pubblico. Viva Comics è un festival che ammiriamo per contenuti e per come riesce a sviscerare della creatività della nostra contemporaneità. Teatri nel Giardino del Mondo viene inaugurato oggi da uno spettacolo etereo come le bolle di sapone, si intitola Rime insaponate ed è proposto nel parco di Casa Madonna Pellegrina alle ore 19. La direzione artistica e organizzativa è della Scuola Sperimentale dell'Attore, con la sinergia di due festival regionali importanti come l'Arlecchino Errante di Pordenone e l'Artalor di Fagagna. Alexos è un giovane artista di bolle di sapone, attivo internazionalmente dal 2015 con i suoi spettacoli e performance. Sulla sua produzione principale, Rime insaponate, uno spettacolo di bolle di sapone in poesia recitato completamente in rima. Siamo alla pagina dello sport, il calciomercato, la Serie C, la Triestina ha acquisito le prestazioni di Salvatore Pezzella, classe 2000, si tratta di un centrocampista centrale che agisce anche come mediano. Dopo il settore giovanile nella Roma, ha giocato in prestito a Modena e poi con la Reggiana e a Siena, tutte squadre di Serie C. Il giocatore ha firmato un contratto biennale con opzione per la terza stagione. Due invece gli acquisti per il Pordenone, entrambi proprio dalla Triestina, arrivano al centrocampista 29enne Daniele Giorico, 84 presenze e 5 gol in alabardato, il difensore centrale 27enne Stefano Negro, in carriera prima di Trieste, la vittoria del campionato in C con le maglie di Perugia e Monza. Una nuova giocatrice di grande esperienza per la Pallanuoto Trieste in vista del prossimo campionato di A1. La società alabardata ha ingaggiato la 28enne Jelena Vukovic, montenegrina naturalizzata serba, difensore da 5 anni in Italia. Nelle ultime 3 stagioni ha vinto 2 scudetti con l'Orizzonte Catania. L'esperienza in Sicilia è stata fantastica, ma avevo bisogno di nuovi stimoli, ha detto la neo giocatrice alabardata. Il progetto della Pallanuoto Trieste mi piace e dico che possiamo puntare ai primi 4 posti. A Lignano è ormai all'orizzonte il 33esimo meeting Sport e Solidarietà che è stato presentato ieri, quest'anno la manifestazione che il 30 luglio sarà teletrasmessa in diretta da Rai Sport, avrà un prologo particolarmente ricco per quello che riguarda le gare giovanili e paralimpiche, un modo per scaldare la pista, hanno detto gli organizzatori prima delle gare, degli atleti più attesi, tra cui sentiamo alcuni nomi dal direttore tecnico Stefano Scaini. Uno su tutti è la Daphne Schippers, un olandese molto forte, molto quotata, capace di correre in 10 secondi 81, quelli che sono i 100 metri, quindi una delle leader della distanza. Questa è una argento olimpico ed oltre bronzo, nonché campionessa europea più e più volte con la sua Olanda, capace di vincere in una sola edizione i 100, i 200, la 4%, l'ultimo campionato europeo, che se la dovrà avere con una ragazza giamaicana, capace di correre anche lei in 10,87, quindi sarà una bella sfida, campionessa del mondo di 100 metri in questa, ed con un bronzo anche alle spalle sul suo stesso campionato, nonché vincitrice della Demon League la scorsa tappa. Giamaicana che fa parte del gruppo. Il nostro famoso gruppo appunto di giamaicani, questo progetto Team Top che ormai è in essere, è acceso con noi stessi da ormai dal 2006, nel quale noi abbiamo la possibilità e anche l'onore di avere 10 di questi atleti a difendere i propri colori nel meeting appunto di sabato 30 luglio. Ludovico Fontana, TGR Friuli Venezia Giulia. 7:49 minuti, siamo alla rassegna stampa, cominciamo dal piccolo che dedica l'apertura e numerose pagine al grande rogo. Il titolo: il Carso in fiamme, focolai da Doberdò a Medeazza, evacuati in 20, decreto regionale di emergenza, e poi approfondimenti sul traffico in tilt, la ferrovia interrotta e il blackout forzato di ieri pomeriggio. Tra gli altri richiami in prima pagina, nell'edizione di Trieste, spazio naturalmente alla vicenda Wärtsilä. La multinazionale va avanti, titolo al quotidiano. Fincantieri pronta a tagliare i rapporti. Sulla questione il piccolo intervista a Riccardo Illy e sintetizza così il pensiero dell'ex sindaco e presidente della regione. Tanti aiuti, zero riconoscenze in cambio. Sull'edizione di Gorizia, l'apertura di cronaca cittadina è per l'omicidio di via Garzarolli. Il padre della vittima, Walter Pappalettera, dice: me l'hanno ucciso, erano in due. Infine, da Grado, polemica su un ordine di servizio del comandante della polizia locale. Niente orecchini e piercing per i vigili uomini. E i sindacati insorgono. Il Messaggero Veneto, quotidiano friulano, la fotonotizia sull'incendio sul Carso, si vede una lingua di fuoco nella boscaglia e l'autostrada bloccata. Il titolo principale: quarta dose agli over 60, 8.000 le prenotazioni per i richiami. Nella fascia alta l'emergenza siccità, irrigazione a goccia nel Meleto, così basta un quinto di acqua. Ma anche le brutte notizie: l'orzo per la birra è troppo secco, 10.000 quintali sono da buttare. Nella fascia di destra, dedicata come al solito alla cronaca, bimba di 4 anni cade dal secondo piano, è grave, è successo a Udine ieri sera. A Tolmezzo c'è anche un detenuto tra i bravissimi alla maturità che si sono diplomati con il 100. Dal confine veneto, nel rogo di Bibione, 25.000 gli alberi bruciati e 5.000 gli animali morti. Nelle pagine locali, al terzo tentativo, l'ordine dei medici approva il bilancio, navetta elettrica per il centro, le prime corse a dicembre, si parla ovviamente di trasporti. Nello sport, Beto a rischio per l'inizio del campionato, più lunghi tempi di recupero del brasiliano, che è infortunato dalla partita contro il Venezia di aprile. Nell'edizione Friuli Occidentale del Gazzettino, sanità, 350 reclami in un anno, crescono le lamentele di chi si rivolge al call center. A cronaca di Pordenone, si finge un soldato per spillare soldi alle donne sui social. Sosteneva di essere in missione in Siria, protagonista un ghanese che abita a Pordenone e che fingeva di essere americano. 60.000 i dollari provento della truffa. Sagra degli Osei, polemiche zittite con due manifesti. La decisione dopo le proteste per il disegno della bimba morta di malattia. Non è bastata la volontà di ricordare la piccola per però far cessare le voci. A Sarone, fuoco, 2.500 metri quadrati di boscaglia bruciati. C'è il tempo per segnalare ancora qualche appuntamento, parliamo di Talenti sotto le stelle, l'ultimo appuntamento oggi, questa sera, si tratta, lo ricordiamo, di un evento organizzato dal Comune di Fiume Veneto e dall'Associazione Sviluppo e Territorio. Il centro di Fiume Veneto diventerà dalle 20 alle 24 una grande isola pedonale costellata di eventi e attrazioni, due palchi in Piazza Marconi e Viale della Repubblica, per le esibizioni di talenti, artisti e lo spettacolo di magia e illusionismo. Ci saranno naturalmente bancarelle di artigianato creativo, benessere, la gara di lentezza del Vespa Club di Fiume Veneto, auto e moto d'epoca. Importante l'appuntamento alle 20.45 per la cerimonia di inaugurazione della nuova piastra polivalente accanto al palazzetto dello sport, che sarà intitolata ad Andrea Gasparotto, giovane di Fiume Veneto scomparso in un incidente stradale nel 2014. Al via il concorso per 4.189 posti per i carabinieri fino all'11 agosto. È possibile presentare la domanda attraverso il portale nell'area dei concorsi. I posti messi a disposizione sono così ripartiti: 2.910 riservati ai volontari in ferma prefissata di un anno e i volontari in ferma prefissata quadriennale già in servizio, 1247 riservati ai cittadini italiani che non abbiano superato il 26esimo anno di età. Il limite massimo è elevato a 28 per coloro che abbiano già prestato servizio militare, 32 i candidati in possesso dell'attestato di bilinguismo. Un'ultima precisazione sulla notizia con cui abbiamo aperto il giornale: il rogo dell'Isert, un vasto incendio scoppiato nel pomeriggio di ieri. Ora l'attenzione naturalmente riguarda le polveri sottili che nelle ultime ore si sono impennate nel Monfalconese, in particolare, come avevamo segnalato, secondo le rilevazioni dell'ARPA, alle 3 della scorsa notte ci sono stati dei picchi. Quello delle 3 appunto è di 1600 microgrammi per metro cubo, quando la normalità o il limite giornaliero sarebbe di 50 microgrammi per metro cubo. Naturalmente l'ARPA continua a monitorare la situazione, noi vi daremo altre notizie nelle prossime edizioni. Questa edizione è stata realizzata da Andrea Saule e Giampaolo Mauro, coordinamento tecnico di Paolo Cassano e Carlo Morello, ha collaborato in redazione Valentina Veneruso. 7:55 minuti, vi lasciamo alle informazioni su traffico e viabilità regionali, poi ci risentiamo alle 12.30 per la prossima edizione. Buona mattinata. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.